Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. Pin pensa tutto a un tratto a se stesso appeso alla grondaia o agli spari delle sentinelle e suda freddo. Sono cose quasi più spaventose a ricordarsi che a viverle. Ma vicino al lupo rosso non si può avere paura. È una cosa bellissima stare seduti insieme col lupo rosso dietro al serbatoio. Sembra di giocare a nascondersi. Solo che non c'è differenza tra il gioco e la vita. E si è obbligati a giocare sul serio, come piace a Pin. «Ti sei fatto male, lupo rosso?» «Non molto», dice lupo rosso, passandosi il dito insalivato sulle sbucciature. «I rami spezzandosi hanno frenato la caduta. Avevo tutto calcolato. A te com'è andata col sapone?» «Mondo boia, lupo rosso, lo sai che sei un fenomeno? Come fai a sapere tutte queste cose?» «Un comunista deve sapere di tutto», risponde l'altro. «Un comunista deve sapersi arrangiare in tutte le difficoltà». «È un fenomeno», pensa Pin. «Peccato che non possa fare a meno di darsi delle arie». «Una sola cosa mi dispiace», dice lupo rosso, «che sono disarmato. Non so cosa pagherei per uno Sten». Sten. Ecco un'altra parola misteriosa. Sten, Gap, Sim. Come si fa a ricordarsele tutte? Ma questa osservazione ha riempito di gioia Pin. Adesso potrà darsi delle arie anche lui. «Io invece non ci penso», dice. «La mia pistola ce l'ho e nessuno me la tocca». Lupo rosso lo smiccia, cercando di non dare a vedere troppo interesse. «Tu hai una pistola?» «Mm-hmm», fa Pin. «Che calibro? Che marca?» «Una pistola vera, da marinaio tedesco, gliel'ho portata via io, per quello ero dentro». «Dimmi com'è fatta». Pin cerca di spiegarglielo e lupo rosso descrive tutti i tipi di pistola che esistono e decide che quella di Pin è una P38. Pin si entusiasma. «P38! Che bel nome, P38! «Dove la tieni?» dice. «In un posto», fa Pin. Adesso Pin deve decidersi se dire o non dire al lupo rosso dei nidi di ragno. Certo, lupo rosso è un ragazzo fenomeno che può fare tutte le cose immaginabili, ma il posto dei nidi di ragno è un grande segreto e bisogna essere dei veri amici in tutto e per tutto. Forse, malgrado tutto, lupo rosso non è simpatico a Pin. È troppo diverso da tutti gli altri, grandi e ragazzi. Dice sempre cose serie e non si interessa di sua sorella. Se si interessasse dei nidi di ragno, sarebbe molto simpatico. Anche se non si interessa di sua sorella. In fondo Pin non capisce perché tutti gli uomini si interessino tanto di sua sorella. Ha dei denti da cavalla e le ascelle nere di peli. Ma i grandi parlando con lui finiscono sempre per tirare in ballo sua sorella e Pin è convinto che è la cosa più importante del mondo e che lui è una persona importante perché è fratello della nera di Carrugio Lungo. Però è convinto che i nidi di ragno siano più interessanti di sua sorella e di tutte le questioni di maschi e di femmine. Solo non trova nessuno che capisca queste cose. Se lo trovasse, saprebbe perdonargli anche quel disinteressarsi della nera. Dice al lupo rosso. «Io so un posto dove fanno il nido i ragni». Lupo rosso risponde. «Io voglio sapere dove hai la P38». Pin dice. «Beh, è lì». «Spiegamelo». «Vuoi sapere come sono fatti i nidi dei ragni?» «Voglio che tu mi dia quella pistola». «Perché? È mia». «Tu sei un bambino che si interessa ai nidi di ragno. Che te ne fai della pistola?» «È mia, mondo boia, e se voglio la butto nel fossato». «Sei un capitalista», dice lupo rosso. «Sono i capitalisti che ragionano così». «Tu morissi», dice Pin. «Che t'anneghi?» «Sei matto a parlare così forte. Se ci sentono, siamo rovinati». Pin si scosta da lupo rosso e stanno zitti per parecchio tempo. Non sarà più amico con lui. Lupo rosso lo ha portato in salvo fuori dalla prigione, ma è inutile. Non riusciranno a fare amicizia. Però Pin ha paura d'essere lasciato solo e quella faccenda della pistola lo lega a filo doppio col lupo rosso, perciò non bisogna tagliare i ponti. Vede lupo rosso che ha trovato un pezzo di carbone e ha cominciato a scrivere qualcosa sul cemento del serbatoio. Prende un pezzo di carbone anche lui e comincia a fare dei disegni sporchi. Un giorno ha riempito tutti i muri del Carrugio di disegni così sporchi che il parroco di San Giuseppe ha protestato al comune e ha fatto ridare l'intonaco. Ma lupo rosso è tutto intento alla sua scrittura e non gli bada. «Cosa scrivi?» chiede Pin. «Morte ai nazi fascisti», dice Lupo Rosso. «Non possiamo perdere così il nostro tempo. Qui si può fare un po' di propaganda. Prendi un carbone e scrivi anche tu». «E io ho scritto», dice Pin, e indica i segni osceni. Lupo Rosso va su tutte le furie e si mette a cancellarli. «Sei matto? Bella propaganda ci facciamo!» «Ma che propaganda vuoi fare? Chi vuoi che venga a leggere in questo nido di ramarri?» «Sta zitto! Ho pensato di fare una serie di frecce sul serbatoio e poi sul muro fino alla strada. Uno segue le frecce, arriva qui e legge». Ecco un altro dei giochi che sa fare solo Lupo Rosso. Giochi complicatissimi che appassionano ma non fanno ridere. «E cosa bisogna scrivere? Viva Lenin?» Anni fa, nel Carrugio, c'era una scritta che compariva sempre: «Viva Lenin!» Venivano i fascisti a cancellarla e il giorno dopo compariva ancora. Un giorno poi arrestarono Francè il falegname e la scritta non si vide più. Francè, dicono che è morto in un'isola. «Scrivi Viva l'Italia! Viva le Nazioni Unite!» dice Lupo Rosso. A Pin non piace scrivere. A scuola lo picchiavano sulle dita e la maestra, vista da sotto il banco, aveva le gambe storte. Poi il W è una lettera che si sbaglia sempre. Meglio cercare qualche parola più facile. Pin ci pensa un po' su, poi comincia. Un C, un U, un L. Le giornate cominciano a essere lunghe e l'imbrunire non arriva mai. Ogni tanto Lupo Rosso si guarda una mano, quella mano è il suo orologio. Ogni volta che la guarda la vede più scura. Quando vedrà solo un'ombra nera è segno che è buio e si può uscire. Ha rifatto la pace con Pin e Pin lo condurrà al sentiero dei nidi di ragno a disseppellire la pistola. Lupo Rosso s'alza, è abbastanza buio. «Andiamo?» dice a Pin. «Aspetta», fa Lupo Rosso. «Io vado in esplorazione e poi torno a prenderti. In uno è meno pericoloso che in due». A Pin non piace rimanere solo, ma d'altronde avrebbe anche paura a uscire così senza sapere cosa c'è fuori. «Di, Lupo Rosso», fa Pin. «Non mi pianterai mica qui da solo». «Sta sicuro», dice Lupo Rosso. «Parola mia che torno. Poi andiamo dalla P38. Pin ora è solo che aspetta. Ora che non c'è più Lupo Rosso, tutte le ombre prendono forme strane. Tutti i rumori sembrano passi che si avvicinano. È il marinaio che sbraita in tedesco in cima al Carrugio e adesso viene a cercarlo fin là. È nudo, in maglietta e dice che Pin gli ha rubato anche i pantaloni. Poi viene l'ufficiale con la faccina da bimbo, con un cane poliziotto al guinzaglio, frustandolo con il cinturone della pistola. E il cane poliziotto ha la faccia dell'interprete dai baffi di topo. Arrivano a un pollaio e Pin ha paura d'esserci lui nascosto in quel pollaio. Invece entrano e scoprono il piantone che ha accompagnato Pin alla prigione, rannicchiato come una gallina, chissà perché. Ecco, al nascondiglio di Pin fa capolino una faccia conosciuta che gli sorride. «È Michel il francese!» Ma Michel si mette il cappello e il suo sorriso si trasforma in sogghigno. È il berretto della brigata nera con sopra la testa da morto. Ecco che arriva Lupo Rosso, finalmente! Ma un uomo lo raggiunge. Un uomo con l'impermeabile chiaro lo prende per un gomito e fa segno di no, indicando Pin con la sua espressione scontenta. «È comitato! Perché non vuole che Lupo Rosso lo raggiunga?» Indica i disegni sul serbatoio, disegni enormi che rappresentano la sorella di Pin a letto con un tedesco. Dietro il serbatoio c'è pieno di spazzatura. Pin non se n'era accorto prima. Ora vuol scavarsi un nascondiglio in mezzo alla spazzatura, ma tocca una faccia umana. C'è un uomo vivo seppellito nella spazzatura. La sentinella, con la sua triste faccia tagliuzzata dal rasoio. Pin si scuote di soprassalto. Quanto avrà dormito? Intorno a lui è notte fonda. E il Lupo Rosso perché non è tornato ancora? Avrà incontrato una pattuglia e sarà stato preso? Oppure sarà tornato e l'avrà chiamato mentre dormiva e se ne sarà andato credendo che lui non ci sia più? O forse stanno battendo la campagna tutto intorno per cercare loro due e non ci si può muovere d'un passo. Pin esce da dietro il serbatoio. Il gracidare delle rane nasce da tutta l'ampia gola del cielo. Il mare è una grande spada luccicante nel fondo della notte. L'essere all'aperto gli dà un senso strano di piccolezza che non è paura. Ora Pin è solo, solo su tutto il mondo, e cammina per i campi coltivati a garofani e a calendule. Cerca di tenersi alto sul declivio delle colline per passar sopra alle zone dei comandi. Poi scenderà al fossato, là ci sono i suoi luoghi. Ha fame. Di quest'epoca sono mature le ciliegie. Ecco un albero, distante da ogni casa, che si è sorto lì per incantesimo. Pin s'arrampica tra i rami e comincia a sfrondarli con diligenza. Un grosso uccello gli piglia il volo quasi tra le mani, era lì che dormiva. Pin si sente amico di tutti in quel momento e vorrebbe non averlo disturbato. Quando sente che la fame si è un po' chetata, si riempie di ciliegie le tasche e scende. E riprende la strada sputando noccioli. Poi pensa che i fascisti possono seguire la scia dei noccioli di ciliegie e raggiungerlo. Ma nessuno può essere così furbo da pensare quello, nessuno tranne una persona al mondo, Lupo Rosso. Ecco, se Pin lascerà una scia di noccioli di ciliegia, Lupo Rosso riuscirà a trovarlo dovunque sia. Basta lasciar cadere un nocciolo ogni 20 passi. Ecco, girato col muretto, Pin mangerà una ciliegia, poi un'altra da quel vecchio frantoio, un'altra passato l'albero di Nespolo, così via fino ad arrivare al sentiero delle tane di ragno. Ma ancora non ha raggiunto il fossato che già le ciliegie sono finite. Pin capisce allora che il Lupo Rosso non lo ritroverà mai più. Pin cammina nel letto del fossato quasi secco, fra grandi sassi bianchi e il frusciare cartaceo delle canne. In fondo alle pozze dormono le anguille, lunghe quanto un braccio umano, che a togliere l'acqua si possono acchiappare con le mani. Alla foce del torrente, nella città vecchia, chiusa come una pigna, dormono gli uomini ubriachi e le donne sazie d'amore. La sorella di Pin dorme sola o in compagnia e si è già dimenticata di lui. Non pensa né se è vivo né se è morto. Sulla paglia della sua cella unico veglia il suo padrone, Pietro Magro, vicino a morire, col sangue che diventa giallo di piscio nelle vene. Pin è arrivato ai propri posti. Ecco il beudo, ecco la scorciatoia con i nidi. Riconosce le pietre, guarda se la terra è stata smossa. No, nulla è stato toccato. Scava con le unghie, con un'ansia un po' voluta. A toccare la fondina ha un senso di commozione dolce, come da piccolo a un giocattolo sotto il guanciale. Estrae la pistola e passa il dito sugli incavi per togliere la terra. Dalla canna, svelto svelto, esce un ragnetto. Era andato a farsi il nido dentro. È bella la sua pistola. È l'unica cosa che resta al mondo a Pin. Pin impugna la pistola e immagina d'essere Lupo Rosso. Cerca di pensare a cosa farebbe Lupo Rosso se avesse quella pistola in mano. Ma questo gli ricorda che è solo, che non può cercare aiuto da nessuno, né da quelli dell'osteria così ambigui e incomprensibili, né da sua sorella traditrice, né da Pietro Magro carcerato. Anche di quella pistola non sa che farsene. Non sa come si carica. Se lo trovano con la pistola in mano sarà di certo ucciso. La rimette nella fondina e la ricopre di pietre e terra ed erbe. Ora non gli resta che mettersi a camminare a caso per la campagna e non sa assolutamente cosa fare. Ha preso a seguire il beudo. Nel buio, a camminare per il beudo è facile perdere l'equilibrio e mettere un piede a bagno nella cunetta o cascare nella fascia di sotto. Pin concentra ogni suo pensiero nello sforzo di stare in equilibrio. Così crede di tenere indietro le lacrime che già gli pesano nella voluta delle orbite. Ma il pianto già lo raggiunge e annuvola le pupille e inzuppa le vele delle palpebre. Prima piovigina silenzioso, poi scroscia di rotto con un martellare di singhiozzi su per la gola. Mentre il ragazzo cammina così piangendo, una grande ombra d'uomo sorge incontro a lui nel beudo. Pin si ferma e si ferma anche l'uomo. «Chi va là?» dice l'uomo. Pin non sa cosa rispondere. Ha le lacrime che urgono e ripiomba in un pianto totale, disperato. L'uomo s'avvicina. È grande e grosso, vestito in borghese e armato di mitra, con una mantellina arrotolata a tracolla. Di, perché piangi? Dice. Pin lo guarda. È un omone con la faccia camusa come un mascherone da fontana. Ha un paio di baffi spioventi e pochi denti in bocca. Che cosa fai qui a quest'ora? Dice l'uomo. Ti sei perso? La cosa più strana di quell'uomo è il berretto. Un berrettino di lana col bordo ricamato e il pompone in cima. Non si capisce di che colore. Ti sei perso? Io a casa non ti posso riaccompagnare. Io con le case c'ho poco da vedere. Non posso mica riportare i bambini smarriti, io. Dice tutto questo quasi per giustificarsi, più verso se stesso che verso Pin. Non mi sono smarrito, dice Pin. E allora? Che fai tu in giro per di qua? Fa l'omone col berrettino di lana. Dimmi prima che fai tu. Bravo, dice l'uomo, sei in gamba. Vedi che sei in gamba, perché piangi? Io vado a ammazzare la gente la notte. Hai paura? Io no. Sei un assassino? Ecco. Neanche i bambini hanno più paura di chi ammazza la gente. Non sono un assassino, ma ammazzo lo stesso. Vai ad ammazzare un uomo adesso? No. Ritorno. Pin non ha paura perché sa che c'è chi ammazza la gente eppure è bravo. Lupo Rosso parla sempre d'ammazzare eppure è bravo. Il pittore che stava di fronte a casa sua ha ammazzato sua moglie eppure era bravo. Michel Francese adesso avrebbe ammazzato gente anche lui e sarebbe sempre restato Michel Francese. Poi l'omone col berrettino di lana parla d'ammazzare con tristezza, come lo facesse per castigo. Lo conosci, Lupo Rosso? Chiede Pin. Per Dio se lo conosco. Lupo Rosso è uno del biondo. Io sono uno del dritto. E tu come lo conosci? Ero con lui, con Lupo Rosso. E l'ho perduto. Siamo scappati di prigione. Abbiamo messo l'elmo alla sentinella. A me prima m'hanno frustato con la cinghia della pistola perché l'ho rubata al marinaio di mia sorella. Mia sorella è la nera di Carrugio Lungo. L'omone in berrettino di lana si passa un dito sui baffi. Già, già, già, già, dice, nello sforzo di capire la storia tutta in una volta. E adesso dove vuoi andare? Non lo so, dice Pin. Tu dove vai? Io vado all'accampamento. Mi ci porti? Dice Pin. Vieni. Hai mangiato? Ciliegie, dice Pin. Beh, tieni del pane. E tira fuori di tasca il pane e glielo dà. Ora camminano per un campo d'olivi. Pin morde il pane. Ancora qualche lacrima gli cola per le guance e lui la inghiotta insieme al pane masticato. L'uomo lo ha preso per mano. È una mano grandissima, calda e soffice. Sembra fatta di pane. Dunque, vediamo un po' com'è andata. Al principio di tutto m'hai detto c'è una donna. Mia sorella, la nera di Carrugio Lungo, dice Pin. Naturalmente, al principio di tutte le storie che finiscono male c'è una donna, non si sbaglia. Tu sei giovane, impara quello che ti dico. La guerra è tutta colpa delle donne.